Avete rumori particolari che vi piacciono di Lizzana? Direi quelli che non si sentono, non si sente il traffico, quindi è più il silenzio, la quiete. Quindi, ma sì. Ci sono dei rumori che vi danno fastidio a Lizzana? Io non la conosco abbastanza, forse Lorenzo può rispondere. Zona industriale, passaggio della ferrovia, la mattina presto si sente quando passa il merci, il treno merci, quello è pesante, ovviamente fa un po' di rumore. E poi c'è sempre un brusio durante il giorno, sempre sotto, ma penso che sia in tutte le città, penso che sia universale in tutti i posti dove c'è movimento, dove c'è lavoro, industria. Se non vai in montagna, c'è tutto un bel silenzio in montagna. Ma se vai al mare, trovi il brusio della spiaggia, dei ragazzi al mare. Ma in che parte abitate più o meno di Lizzana? Più su, più verso Casteldante. Ok. Più in alto. Grazie. Prego. Per il vostro tempo e arrivederci. Arrivederci.